Stiamo commettendo un madornale errore che distrugge il messaggio del Vangelo di Dio e la vita di chi ha posto fede in Cristo quale unico Salvatore e Signore, così come lo presenta la parola di Dio. Questa affermazione non è né terroristica né abbattitrice, ma ha lo scopo di rivedere una verità che è stata travisata e manipolata dai religiosi per tenere in catene chi è stato una volta per sempre liberato. Mi riferisco al perdono di Dio. Senza ombra di dubbio, il perdono di Dio è uno degli aspetti fondamentali del rapporto tra il divino e la creatura. Quando si parla di perdono è inevitabile che vi sia il presupposto di una trasgressione che scaturisce da un disubbidienza, e la disubbidienza è l'inadempimento di un ordine espresso a voce o mediante una legge. Perciò, per quanto l'uomo non voglia riconoscere di essere mancante davanti a Dio, per non dire che a volte forse pensa addirittura di essere meritevole, il suo atteggiamento è notevolmente assurdo perché il Dio della parola, al quale si rifanno ebrei cattolici e protestanti, ha dato delle leggi chiare e inequivocabili. E poiché nessun essere umano è in grado di osservare nella pienezza un solo comandamento, va da sé che tutti, uomini e donne, sono mancanti davanti a Dio, cioè peccatori. Proprio perché l'uomo, come razza, è un peccatore, è inevitabile che non può piacere a Dio e non gli è concesso di andare e stare alla presenza della sua divinità. Perciò vi è un solo modo di presentarsi davanti a Dio, ed è quello di essere perdonato. È vero che alcuni religiosi cercano di evitare il perdono di Dio, cercando di piacergli con delle opere e delle offerte, ma per quanto si sforzano devono alla fine cedere e lasciare ogni presunto merito per confessare il peccato e accettare il perdono di Dio per grazia, mediante la fede nell'opera sufficiente e sostitutoria di Cristo. In merito, la parola di Dio non lascia dubbi. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. 2 Corinzi 5, 18-19. Quindi, riguardo a tutti coloro che sono nati e vissuti dopo il sacrificio di Cristo, fin da prima che nascessero, i loro peccati erano già perdonati. Virtualmente i peccati erano perdonati anche a coloro che hanno vissuto prima della morte di Cristo, ma per questi il perdono è diventato effettivo, concreto, reale solo dopo la sua resurrezione. Al peccatore perduto non resta che confessare i suoi peccati e ricevere il perdono di Dio, cioè la potenza della sua misericordia. Numeri 14 e 17. Proprio perché il perdono dei peccati è stato già effettuato, il credente in Dio tramite il Cristo Salvatore rende un culto di gioia e di riconoscenza. Questa semplice verità e reazione da parte di chi è stato perdonato non è stata nel modo più assoluto compresa dal cattolicesimo romano, il quale mantiene da sempre nel proprio culto il bisogno di chiedere del continuo perdono a Dio. Questo atteggiamento rivela un principio che condanna la religione cattolica romana in uno dei suoi punti di fede più importanti, il perdono dei peccati. Poiché non vi è nulla di nuovo sotto il sole, poiché di religiosi ce ne sono sempre stati e tra questi capeggiano gli ebrei, è opportuno leggere la testimonianza di un ebreo che ha ricevuto il perdono dei peccati. Mentre ogni sacerdote è in piedi, ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti dopo aver detto questo è il patto, che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò. Ora, dove ci è il perdono di queste cose, non ci è più offerta per il peccato. Ebrei 10, 11-18. L'autore della lettera agli ebrei ha citato una promessa fatta dall'Eterno circa 600 anni prima di Cristo, secondo la quale egli avrebbe perdonato i peccati. Ora, quando i peccati sono perdonati, non vi è più ragione di esprimere un culto per chiedere perdono, ma resta solo di esprimere un culto di lode e di riconoscenza. Perciò chi non offre del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il nome di Dio, Ebrei 13 e 15, cioè Cristo, testimonia di non essere stato perdonato. Chi testimonia di non essere stato perdonato da Dio fa Dio bugiardo, disonora l'opera salvifica e sufficiente di Cristo, bestemmia contro lo Spirito Santo e non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Ma questa sentenza è data perché l'uomo non accetta il perdono. E rivela quanto l'uomo sia terribilmente perduto. Non so se sarà possibile togliere ed evitare il lebbroso moralismo della religione cattolica romana. Ma, secondo la promessa di Dio, il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, è in grado di purificare la coscienza del credente dalle opere morte per servire il Dio vivente, Ebrei 9 e 14. Una di queste opere morte è proprio quella di non vivere da perdonati, poiché chi ha posto fede in Cristo Gesù risorto crede di essere stato già perdonato. Efesini 4 e 32, Colossesi 3 e 13. Egli deve vivere di conseguenza. Purtroppo sono pochi, anzi, pochissimi coloro che si relazionano con Dio da perdonati. Lo rivela il loro atteggiamento da colpevoli, e questo fatto ha delle conseguenti ripercussioni nelle relazioni umane. E, fuori di discussione che una persona perdonata non ha più bisogno di chiedere perdono, se lo chiedesse, offenderebbe colui che lo perdona. Se il figlio di Dio è stato già perdonato di tutti i suoi peccati, passati, presenti e futuri, se chi pone fede in Cristo viene giustificato, cioè reso giusto o dichiarato giusto, se con un'unica offerta Cristo ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, Ebrei 10 e 14, perché il credente deve chiedere perdono quando commette una trasgressione alla legge di Dio? È giusto seguire la filosofia moralista del cattolicesimo romano di chiedere perdono dei peccati che si commettono? Com'è possibile chiedere perdono di ciò di cui siamo stati perdonati? Chiedere perdono non è un sintomo di avere ancora la coscienza macchiata di colpe? Il grande merito del sacrificio di Cristo non è stato solo quello di salvare gli uomini e di perdonare loro i peccati, ma anche quello di liberare dalla schiavitù dei sensi di colpa che il peccato lascia nelle coscienze. Vi sono credenti che in ogni preghiera chiedono a Dio perdono dei loro peccati come se non lo avessero mai ottenuto, mentre il loro atteggiamento dovrebbe essere quello di ringraziare Dio per il perdono già ricevuto. La preghiera del cristiano quando pecca non è quella di una persona che non è stata perdonata, ma quella di chi ringrazia del perdono già ottenuto. Chi ha posto fede in Cristo Gesù non può avere sensi di colpa, non può chiedere perdono, ma solo accettare di essere stato perdonato, di essere stato reso giusto, di non avere nessuna ragione di accostarsi a Dio con il sentimento di essere colpevole. Chi chiede perdono a Dio e ha sensi di colpa, disonora Dio e glorifica il diavolo. Va ripetuto che il perdono di Dio deve coinvolgere ogni aspetto della vita del credente. Non troviamo scritto nelle lettere degli Apostoli che il credente, diventato figlio di Dio da adulto per una fede in Cristo Gesù, debba chiedere perdono. Chi è stato perdonato da Dio deve ogni giorno ringraziare Gesù Cristo per il perdono ricevuto e perché egli intercede per lui, 1 Giovanni 2, 1. Soprattutto quando viene meno all'ubbidienza dei precetti divini. Questa è la liberazione psicologica dal peccato proposta da Dio all'uomo, 1 Giovanni 3, 20, 21. Ma vi è un'altra liberazione importante, della quale la religione tiene schiavo ogni uomo, il senso di colpa che proviene dalla coscienza di avere insita la depravazione della natura umana. Non occorre molto per rendersi conto che la razza umana ha ereditato e trasmesso delle inclinazioni malvagie. Le guerre, le vendette, l'odio, le inimicizie sono all'ordine del giorno. Quando una persona diventa figlia di Dio dopo aver riconosciuto i suoi peccati e confessati, quando riconosce che solo il sacrificio di Cristo la può salvare, riceve lo Spirito Santo, nasce di nuovo, è partecipe della natura divina. 2 Pietro 1:4. Questo fatto fa sì che chi è nato da Dio abbia due nature, una naturale e malvagia, una divina e santa. Galati 5:17. Perciò chi ha posto fede in Cristo, pur avendo l'animo alle cose sante e celesti, mantiene anche le inclinazioni naturali al male ed è sottoposto alle accuse del diavolo. Apocalisse 12:10. Per questa realtà spesso le preghiere dei figli di Dio contengono delle implorazioni di perdono solo per il fatto di provare sentimenti o inclinazioni verso ciò che Dio disapprova, o perché la loro coscienza li accusa impropriamente. Questo disonora Dio e il suo perdono. Chiedere perdono perché si hanno inclinazioni malvagie significa incolpare Dio di averci creati così come siamo. Non è una colpa avere attitudini al male, Romani 7:21. La colpa è nell'assecondarle, Efesini 2:3. Un distruttore moralismo, gonfiato anche dai discorsi di parvenza cristiana, imperversa nella coscienza di ogni essere umano, e solo una presa di coscienza del perdono di Dio lo può cancellare. Per Dio il peccato non è più un problema, Isaia 43:25. Per millenni Cristo aveva dato al popolo di Israele delle regole religiose perché l'uomo si rendesse conto che sarebbe arrivato il tempo del perdono di Dio. Salmo 65:3. Con la sua morte e la sua resurrezione Gesù Cristo ha tolto per sempre la colpa all'umanità. Dio non imputa più il peccato all'uomo, e chi pone fede nel piano divino vive da libero e liberato dai sensi di colpa e rimorsi causa il peccato. 1 Timoteo 1:12-14. Per un figlio di Dio il peccato quando è compiuto va riconosciuto e confessato. 1 Giovanni 1:9. Condizione questa per poterlo abbandonare. E lo stato di dolore nel quale dovrebbe trovarsi si trasforma in un motivo di gioia per il perdono del Dio Trino già dato e ricevuto. 1 Giovanni 2:12. Nessuna richiesta di perdono da parte dell'uomo, ma solo accettazione gioiosa. Dopo la morte di Cristo, il credente nel Dio delle Scritture deve conservare un cuore sempre riconoscente in ogni circostanza, 1 Tessalonicesi 5:18, perché non vi può essere più nulla di negativo nella sua vita, dato che anche le sconfitte del peccato riconosciute, confessate e abbandonate si trasformano in un continuo motivo di lode per mezzo del perdono di Dio, Ebrei 13:15. Aprile 2005. Ellero.